Vinny baby. Yeah. A man jam. M. Ehi, Davide come sta? Me lo hai mai chiesto? Chiama un'ambulanza, frate, fai presto. Che il sogno che avevo non è mai questo. Mi sveglia, mi prende a calcio e poi mi dà il resto. 5 di mattina, sempre in prima linea. In after dalla sera prima, altro che seratina. La vita è questa, il mio amico in macchina a muovere la testa. Alla prossima gira a testa. I bicchieri sul cruscotto che fanno le onde. Durante conversazioni profonde, tipo l'ho chiamata e non mi risponde. Alle donne mi regalano un'altra nottata insonne. Rutto vodka e zenzero, chissà che penserò. Se c'ho un punto fisso, ora punto a perderlo. Vado dritto in bocca a Cerbero. Il mio amico mi dice accelero e vai. 120 sotto gli alberi e i lampioni spenti. Una di quelle serate che non rientri. Con gli animi freddi come il ghiaccio dei cubetti nei vicoli stretti che usiamo al posto dei letti. Senza sonno come Christian. Faccio l'equilibrista su una pozzanghera di Belvedere. In hotel c'è una bella vista. Se questo è un mal, sono il protagonista. Bianco e nero, ma qua nessuno sa che c'ero. Faccio il realizzato che poi manco è vero. La scrivo in modo che ti incanta. La rima mia non sembra nessun'altra. È un vestito di marca. Metti benzina che poi andiamo a piedi. Intanto nel giro una di Jedi. 5 minuti e siamo ready. Si riva, dancing with the devil. Roba da finestrino giù. Prende male l'aria in faccia. Quasi l'alba, oggi non rimo più. Oggi ti dico primo tu. L'animale chiuso in gabbia lascia tracce già dal primo tour. 97 con i treni a 27 palazzetti. Alla penisola dal nord al sud. Già, solo ricordi a 4-2. Still nice a 4-2. Grappa whisky non li reggo più. 42 gradi all'ombra nell'autovettura. Rap nella fusion, oggi è fusion sopra un uno rap. La fronte adesso mi gronda, suono questa nuova bomba. 91, fanculo la trap. La mia Milano chiama, meglio che esco. C'è un clima trash bro, sembra quello di un poliziesco. Cammino svelto, sembra un bambino che si è alzato presto. Con la faccia da buon pretesto cerco nuove escort. Non potrete mai farmi fesso. Conosco il commissario, lo incontro, mi dice buongiorno maestro. Ma in fondo questo è solo un modo per stare a galla come un altro. Volume a palla sulla mia auto, così viaggiamo. La nostra musica parla di noi. Scusala ancora per ciò che ha fatto al mio senno del poi. Scalo il cambio, quello classico, metto una terza. Mi godo un giro panoramico nella mia merda. Serate fredde tra Milano e Roma. Non sono Rick Ross, il mio Dio non perdona. Hip hop lo guido Daytona. Piscio su e-blog, ogni artista in Italia ha una maschera. Slipknot, pane al pane, sono onesto fra dal giorno zero. Che voglia c'hai fra? Come chi guarda un porno intero. Rincoglionisco le masse come ogni giorno il clero. Top player, no hater, suono rock. Slayer, 22 motivi, ho 45 ragioni per spararti in faccia, marcio sulla traccia. Ero in tour quando la moda rap non era ancora scoppiata. La vita è una troia, la tengo bagnata. Affamato come i bambini del Biafra. Il Robin Hood del quartiere, il Che Guevara della strada. Obama, vestito chilo, Osama. Era meno armato di me quando rimo. Oh mamma, rap grasso Costanzo, fumo Seth Rogen. Se la droga fosse musica sono Beethoven. Due ragazze brasiliane su un Range Rover. Faccio un concerto sulla Pussy ma prima le prove. La mia china è medicina, metto sta ragazzina pecorina. E a 90 ma sono le 9, non mi volevano nella vetrina. Ora tutti quanti stanno in fila, io sono in cima al trotto.